Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Al bureau c'erano lettere per Lucy, una di suo fratello, tutta piena di sport e biologia, un'altra di sua madre, deliziosa come potevano esserlo soltanto le lettere di sua madre. In questa lettera si parlava del crocus, che al momento dell'acquisto era stato garantito giallo e che invece spuntava color pulce, e della nuova cameriera che aveva annaffiato le felci con essenza di limonata, e delle villette gemelle che stavano rovinando Summer Street e spezzando il cuore di Sir Harry Otway. Lucy riandò col pensiero alla vita in famiglia, libera, piacevole, in cui le era permesso fare qualsiasi cosa e in cui non le succedeva mai nulla. La strada che saliva in mezzo alla pineta, il salotto ordinato e pulito, il panorama sul Weald dal versante del Sussex, le si pararono tutti davanti nitidi e luminosi, ma patetici come i quadri di un museo, dove dopo molte vicissitudini il viaggiatore rivolge il passo. «Che novità ci sono?» domandò la signorina Bartlett. «La signora Weiss e suo figlio sono andati a Roma», rispose Lucy, dando la notizia che le interessava meno di ogni altra. «Tu li conosci, i Weiss? Sono simpatici, i Weiss, così intelligenti. L'intelligenza personificata, dico io. Non hai una gran voglia di andare a Roma, tu?» «Una voglia da morire!» Piazza della Signoria è troppo pietrosa per essere brillante. Non ha erba, né fiori, né affreschi, né mura scintillanti di marmi, né consolanti riquadri di mattoni rossi. Per un caso curioso, a meno di non credere in un genius loci che vi presieda, le statue che ne alleviano la severità non suggeriscono l'innocenza dell'infanzia o il superbo smarrimento della giovinezza, ma le gesta coscienti dell'età matura. Perseo e Giuditta, Ercole e Tusnelda, hanno tutti adempiuto o subito qualcosa. E benché siano immortali, l'immortalità è loro toccata dopo l'esperienza, non prima. Qui, non solo nella solitudine della natura, un eroe potrebbe incontrare una dea o un'eroina un dio. «Charlotte!» gridò all'improvviso la ragazza. «Mi viene un'idea. Che ne diresti se domani tagliassimo la corda e volassimo a Roma di filato, nell'albergo dei Weiss? Già che lo so cosa voglio, io non ne posso più di Firenze. Su via, hai detto che verresti in capo al mondo con me? E fallo dunque!» La signorina Bartlett, con pari vivacità, ribatté. «Personcina bislacca, che ne sarebbe allora della tua scarrozzata sui colli?» Percorsero fianco a fianco la desolata bellezza della piazza, ridendo dell'irragionevole proposta. Fu Fetonte a condurli a Fiesole quel giorno memorando. Un giovanotto tutto fuoco e storditaggine che spronava temerariamente i cavalli del suo padrone su per l'erta della collina sassosa. Il signor Beebe lo riconobbe a prima vista. Non lo avevano sfiorato né i secoli della fede né il secolo del dubbio. Era Fetonte in Toscana, alla guida di un fiaccare. E fu a Persefone che egli chiese di poter dare un passaggio lungo il percorso, dicendo che era sua sorella, Persefone, alta e pallida e snella, che ritornava con la primavera alla capanna materna e che ancora si faceva schermo agli occhi contro la luce inconsueta. Il signor Iger si oppose alla richiesta, dichiarando che una ciliegia tira l'altra e che bisognava stare attenti a non lasciarsi turlupinare, ma le signore intercedettero per lei, e quando fu messo in chiaro che si accordava un favore eccezionale, la dea venne autorizzata a salire a cassetta accanto al dio. Immediatamente Fetonte le infilò la briglia sinistra giù dal capo, la qual mossa gli consentì di guidare cingendole la vita col braccio. Lei non ci fece caso. Il signor Iger, che sedeva dando la schiena ai cavalli, non vide nulla dell'indecoroso maneggio e continuò a discorrere con Lucy. Gli altri due sedili della carrozza erano occupati dal signor Emerson padre e dalla signorina Levish. Il signor Beebe, senza consultarsi con il signor Iger, aveva raddoppiato il numero dei partecipanti alla gita e, quantunque le signorine Bartlett e Levish avessero impiegato tutta la mattinata ad architettare la distribuzione dei posti, nel momento critico, ossia all'arrivo delle carrozze, Avevano perso la testa e la signorina Levish si era installata nella prima accanto a Lucy, mentre la signorina Bartlett era finita nella seconda con George Emerson e il signor Beeb. Fu un boccone amaro da mandare giù per il povero cappellano, vedere così trasformata la sua partie carrée. A questo punto il tè in una villa del Rinascimento, seppure lo avessero contemplato, diventava impossibile. Lucy e la signorina Bartlett avevano un certo stile e il signor Beeb, benché non ci si potesse fidare troppo di lui, era un uomo d'ingegno. Ma una pretenziosa scrittrice di terz'ordine e un giornalista che aveva ucciso la moglie al cospetto di Dio. Quei due non avrebbero mai messo piede in una villa dietro sua presentazione. Lucy, elegante nell'abito bianco, sedeva eretta e nervosa in mezzo a quei materiali esplosivi, attenta alle parole del signor Eager, decisa a parare gli eventuali attacchi della signorina Levish e guardinga nei confronti del signor Emerson, che per fortuna si era addormentato quasi subito grazie ai cibi pesanti serviti a colazione e alla sonnolenta atmosfera primaverile. La ragazza scorgeva nella spedizione l'opera del fato. Se il fato non fosse intervenuto, sarebbe riuscita benissimo a schivare George Emerson. Il giovane aveva dimostrato apertamente di volere dare seguito alla loro familiarità, e lei si era tirata indietro non perché lo avesse in antipatia, ma perché non sapeva cos'era accaduto e sospettava che lui lo sapesse, e questo la impauriva. Poiché il vero evento, qualunque fosse, non aveva avuto luogo davanti alla loggia, bensì presso il fiume. Comportarsi da folli alla vista della morte è scusabile, ma discuterla in seguito, passare dalla discussione al silenzio e tramite il silenzio alla buona armonia, questo è un errore, non imputabile a sconvolgimento emotivo, ma alla struttura intrinseca dei fatti. C'era effettivamente un che di biasimevole, pensava Lucy, nella loro contemplazione concorde della corrente ombrosa, nell'impulso comune che li aveva guidati verso la pensione senza lo scambio di una parola o di uno sguardo. Quel senso di cattiva condotta era stato leggero sul principio, tanto che si era astenuta a malapena dal fare la gita alla Torre del Gallo. Ma ogni volta che evitava George, si imponeva più che mai la necessità di evitarlo da capo. E ora la celeste ironia, valendosi di sua cugina e di due preti, non le permetteva di partire da Firenze senza avere partecipato con lui alla spedizione sulle colline. In seguito a uno scossone supplementare, il reverendo Eager si rigirò irosamente nel sedile. Fetonte, che già da un po' di tempo stava cercando di baciare Persefone, ci era riuscito in quell'attimo. Ne seguì una scenetta che, come ebbe a dire più tardi la signorina Bartlett, fu estremamente spiacevole. Si fecero fermare i cavalli, si ingiunse agli innamorati di sciogliersi dall'abbraccio, il ragazzo avrebbe perso il suo pourboire, la ragazza doveva scendere immediatamente. «È mia sorella!» protestò il giovanotto voltandosi verso i passeggeri con occhi supplichevoli. Il signor Eager si prese il disturbo di dargli del bugiardo, al che Fetonte chinò la testa non per il contenuto, ma per la forma dell'accusa. In quel momento il signor Emerson, svegliato di soprassalto dalla brusca fermata, dichiarò che non bisognava separare gli innamorati a nessun costo e affibbiò a entrambi una pacca sulla schiena per esprimere la sua approvazione. E la signorina Levish, contraria com'era a far lega con lui, si sentì in dovere di difendere la causa della Bohème. «Non chiederei di meglio che di lasciarli fare il loro comodo», gridò. «Ma scommetto che riceverei ben scarso appoggio. Da quando sono al mondo mi vanto di essermi sempre infischiata delle convenzioni. Questa la chiamo un'avventura, io». «Non dobbiamo cedere», disse il reverendo Eager. «Lo sapevo che quell'uomo contava di metterci nel sacco. Ci tratta come se fossimo una comitiva dei turisti di Cook». «Mancherebbe altro», disse la signorina Levish, mentre la sua foga si smorzava visibilmente. L'altra carrozza era venuta a fermarsi dietro di loro e il giudizioso signor Beeb dichiarò che dopo l'ammonimento la coppia si sarebbe comportata bene, di sicuro. «Li lasci in pace», pregò il signor Emerson rivolgendosi al cappellano che non gli incuteva la minima soggezione. «Ci imbattiamo così spesso nella felicità da ritenerci autorizzati a scacciarla quando il caso l'ha fatta sedere in serpa una carrozza. Avere due amanti al posto di guida. Un re potrebbe invidiarci, e separandoli commetteremo a dir poco un sacrilegio. Il signor Iger, che era afflitto da una lingua troppo sciolta piuttosto che da una volontà troppo ferma, aveva deciso di farsi sentire e apostrofò di nuovo il fiaccheraio. L'italiano in bocca agli italiani è un torrente dalla voce fonda, con cateratte e macigni inattesi per preservarlo dalla monotonia. In bocca al signor Iger si trasformava in una fonte acida sibilante che sprizzava alta e rapida, sempre più rapida e sempre più stridola, finché non veniva tappata con un brusco schiocco. «Signorina», disse il giovanotto a Lucy quando cessò lo sfoggio di eloquenza, perché mai ricorreva a Lucy per aiuto. «Signorina», fece eco Persefone con la sua voce pastosa di contralto, e accennò all'altra vettura. «Perché?» Per un momento le due ragazze si fissarono in faccia, quindi Persefone smontò da cassetta. «Vittoria, alfine!» esclamò il signor Iger battendo rumorosamente le mani mentre le carrozze si rimettevano in moto. «Ma che vittoria!» disse il signor Emerson. «Questa è una sconfitta. Lei ha separato due persone che erano felici!» Il cappellano chiuse gli occhi. Era costretto a sedere accanto al signor Emerson, ma non intendeva rivolgergli la parola. Il vecchio, rinfrescato dalla dormita, riaffrontò calorosamente l'argomento. Ingiunse a Lucy di dichiararsi d'accordo con lui. Urlò a suo figlio di dargli manforte. «Abbiamo tentato di comprare qualcosa che non si compra col denaro. Quest'uomo aveva pattuito di condurci in giro nella sua vettura ed è quello che sta facendo. Non abbiamo diritti di sorta sulla sua anima». La signorina Levish si rabbuiò. È duro dover riconoscere che un individuo, da noi definito tipicamente britannico, non parla in carattere col suo personaggio. «Guidava in malo modo», obiettò. «Ci ha sbatacchiati senza pietà. Questo lo nego. È stata una scarrozzata riposante quanto una buona dormita. Oh, adesso sì che il giovanotto ci sta sbatacchiando. Le sembra strano? Sarebbe contento di buttarci fuori ed è ampiamente giustificato. E se fossi superstizioso... avrei paura anche della ragazza, io. Non è saggio far soprusi ai giovani. Ha mai sentito parlare di Lorenzo dei Medici?» La signorina Levish si inalberò. «Figuriamoci se non lo conosco. Lei si riferisce a Lorenzo il Magnifico o a Lorenzo Duca di Urbino o a Lorenzo detto Lorenzino a causa della sua statura minuscola? Lo sa Dio. C'è caso che lui lo sappia, perché io mi riferivo a Lorenzo il Poeta. Questo poeta scrisse un verso, l'ho inteso citare proprio ieri, che suona pressappoco così: «Non mettetevi a combattere contro la primavera». Il signor Iger non seppe resistere all'opportunità di esibire la sua erudizione. «Non fate guerra al maggio», mormorò. «E io sostengo che la guerra gliel'abbiamo fatta. Guardi». Il signor Emerson indicò il Val d'Arno, visibile in gran lontananza sotto a loro attraverso gli alberi costellati di gemme. 50 miglia di primavera e siamo venuti fin quassù apposta per ammirarle. Credete che ci sia differenza fra la primavera nella natura e la primavera nell'uomo? Eppure eccoci qua a cantare le lodi dell'una e a tacciare di indecenza l'altra, vergognandoci che le medesime leggi operino eternamente per il tramite di tutte e due. Nessuno lo incoraggiò a continuare il discorso. Dopo un po' il signor Iger diede il segnale della fermata e schierò la comitiva per predisporla alla scorribanda sulla collina. Ora si frapponeva tra loro e la cima di Fiesole una conca, simile a un grande anfiteatro formata da scaglioni a terrazzo e colma di olivi nebbiosi, e la strada, dopo averne contornata la curva, saliva serpeggiando lungo la balza di un monte che dominava il fondovalle. Era questa balza umida, incolta, disseminata di cespugli e di alberi radi, che aveva colpito la fantasia di Alessio Baldovinetti quasi 500 anni prima. I membri della comitiva saltavano di qua e di là da un ciuffo d'erba all'altro, e la loro ansia di rimanere uniti era uguagliata soltanto dal desiderio di andarsene in altre direzioni. Finalmente si divisero in gruppi. Lucy si attaccò alle costole della cugina e della signorina Levish. Gli Emerson ritornarono alle carrozze per intrattenersi in laboriosa conversazione coi fiaccherai, mentre i due ecclesiastici, che erano tenuti ad avere interessi in comune, furono lasciati a vedersela tra loro. Le signorine anziane gettarono presto la maschera. In quel bisbiglio nettamente percettibile, che ormai era così familiare a Lucy, intavolarono una discussione non già su Alessio Baldovinetti, ma sulla gita. La signorina Bartlett aveva chiesto a George Emerson quale era il suo ramo di attività e lui aveva risposto «le ferrovie». Ora si pentiva assai di averglielo chiesto. Non si sarebbe aspettata una risposta così orribile, altrimenti non gli avrebbe fatto la domanda. Il signor Bibb aveva cambiato abilmente discorso e lei sperava che il giovane non ci fosse rimasto troppo male. «Le ferrovie!» ansimò la signorina Levish. «C'è da morir da ridere, era ovvio che fossero le ferrovie!» Non riuscì a frenare l'ilarità. «Quello lì è il ritratto parlante d'un facchino di... dello scalo merci!» «Eleanor, si calmi!» E la signorina Bartlett tirò per la manica l'esuberante compagna. «Stia zitta! Finiranno col sentirci, gli Emerson!» «Non posso smettere! Mi lasci sfogare la mia cattiveria, un facchino!» «Eleanor!» Lucy si intromise nel dialogo. «Non è davvero il caso di preoccuparsi», disse. «Gli Emerson non sentono, e anche se sentissero, non gliene importerebbe nulla». La signorina Levish parve tutt'altro che contenta dell'interruzione. «Oh, la signorina Honeychurch ci ascolta!» esclamò indispettita. «Uffa, vada via, bricconcella! Noi due desideriamo trattare argomenti spinosi che non si addicono agli orecchi di una fanciulla». La ragazza si impuntò. Man mano che il suo soggiorno a Firenze si avvicinava alla fine, si sentiva a suo agio solamente in mezzo alle persone che le erano indifferenti. Una di queste era la signorina Levish e un'altra, per il momento, era Charlotte. Rimpianse di avere chiamato la loro attenzione su di sé. Erano entrambe seccate dalla sua osservazione e apparivano decise a sbarazzarsi di lei. «Come si fa presto a stancarsi», disse la signorina Bartlett. «Oh, rimpiango di cuore che tua madre e Freddy non siano qui con noi». Nell'animo della signorina Bartlett, l'abnegazione aveva totalmente usurpato le mansioni dell'entusiasmo. Anche Lucy si astenne dal guardare il paesaggio. Nulla le sarebbe piaciuto finché non fosse stata al sicuro nella città eterna. «Si metta a sedere, allora», disse la signorina Levish. «Ammirate la mia previdenza». E con ripetuti sorrisi esibì due quadrati di quel tessuto impermeabile che serve a proteggere le fondamenta del turista dall'erba bagnata o dai freddi gradini di marmo. Si sedette sul primo. Chi doveva sedersi sul secondo? Lucy. Lucy, senza ombra di dubbio, per me va bene la terra. Sul serio, sono anni che non ho i reumatismi. Se proprio li sentissi arrivare, starò in piedi. Immagina l'inquietudine di tua madre se ti lasciassi sedere nel bagnato vestita di tela bianca come sei. E la signorina Bartlett si calò pesantemente nel punto in cui il suolo appariva più fradicio. «Eccoci dunque sistemate tutte e tre, come meglio non si potrebbe, sebbene il mio vestito sia più leggero del tuo. Non darà tanto nell'occhio, perché è marrone. Siediti, cara, tu sei troppo altruista, non ti fai valere a sufficienza». Poi si raschiò la gola. «Non allarmatevi, non è mica un raffreddore. Questo è appena una tossettina e ce l'ho da 3 giorni. Non c'entra assolutamente col fatto che io stia seduta per terra». C'era un unico modo di risolvere la situazione. In capo a 5 minuti, Lucy partì in cerca dei due preti, sconfitta dal quadrato impermeabile. Si rivolse ai fiaccherai, che si erano stravaccati nelle carrozze e ne andavano impregnando i cuscini del profumo di sigaro. Il malfattore, un giovane scarno e annerito dal sole, si alzò per salutarla con la cortesia di un padrone di casa e la disinvoltura di un parente. «Dove?» disse Lucy dopo prolungata e ansiosa riflessione. La faccia del vetturino si illuminò. Naturalmente lui lo sapeva. Dove? Non era neanche tanto lontano. Il suo braccio girò su 3/4 dell'orizzonte. Gli bastava pensarci solo un attimo per sapere dove. Si premette i polpastrelli sulla fronte, quindi li spinse verso di lei, quasi ne trasudasse un estratto visibile di sapienza. Pareva necessaria un'ulteriore precisazione. Come si diceva in italiano, clergyman? «Dove buoni uomini?» chiese Lucy alla fine. Il vetturino legò il cavallo a un albero, gli diede un calcio perché stesse tranquillo, spolverò la carrozza, si riavviò i capelli, rese al cappello la forma originaria, impartì nuovo vigore ai baffi e in meno d'un quarto di minuto fu pronto per guidarla. Gli italiani vengono alla luce conoscendo la strada. Pare che tutta la terra stia davanti a loro non come una carta geografica, ma come una scacchiera, sopra la quale contemplano in continuazione gli spostamenti delle pedine oltre ai riquadri. Ognuno di noi è capace di trovare una località, ma trovare gli assenti è un dono di Dio. Il giovane si fermò solo un momento per coglierle alcune grandi violette turchine. Lucy lo ringraziò con autentico piacere. In compagnia di quell'uomo comune, il mondo era bello e schietto. Sentì per la prima volta l'influsso della primavera. Il braccio di lui girò nuovamente sull'orizzonte in un gesto garbato. Laggiù, di violette e di altre cose, ce n'era volontà. La signorina gradiva vederle. Ma buoni uomini! Un inchino fu la risposta. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.